Valle Giulia, facoltà di architettura, Roma, anno 1979. Da diversi mesi la facoltà è occupata. Fuori le vetrate sono tappezzate di striscioni, ci sono scritte sui muri ovunque. L'entrata è presidiata dai compagni del servizio d'ordine. Si fanno turni di guardia a rotazione. I caschi e gli spranghi li abbiamo nascosti in certe stanze, a portata di mano. All'ultimo piano le finestre che danno sul terrapieno in salita verso viale Bruno Buozzi sono sempre pronte ad aprirsi in caso di fuga, nell'eventualità di un'irruzione della polizia. C'è un gran viavai di studenti. I corsi sono autogestiti. C'è quello di scienza delle costruzioni, quello di statistica, di matematica. Nelle aule di progettazione al terzo piano qualcuno ha scritto sul muro «Riprendiamoci la città». Si sono formate anche delle commissioni di studio. In una si indaga il rapporto tra potere dei baroni universitari e intralazzi urbanistici. In un'altra si stilano documenti per i comitati delle case occupate nei quartieri di periferia. In aula magna le assemblee sono frequenti. A parlare si alternano i leader dei gruppi extraparlamentari presenti in facoltà. Il comitato politico di architettura li contiene tutti, da Avanguardia Operaia al Manifesto, a Lotta Continua, a Potere Operaio, ma le loro posizioni sono diversissime. Dopo qualche mese di occupazione, però, la stanchezza comincia a farsi sentire. La partecipazione alle assemblee si fa sempre più scarsa e nelle stanze e dormitori all'ultimo piano molti sacchi a pelo restano vuoti la notte. Da qualche settimana tra gli occupanti più assidui si è formato una specie di gruppo trasversale di cui faccio parte anch'io. Molti di loro sanno suonare. Così, per passare il tempo, ci mettiamo a organizzare piccoli happening musicali. Ci viene a trovare Dario Fo, ci racconta del mestiere d'attore. Ci inventiamo piccole performance in cui mescoliamo arte visiva e animazione, sempre con molta musica, usando le aule abbandonate. Abbiamo anche scritto un documento che si intitola Da Woodstock a Mirafiori e l'abbiamo distribuito. E io mi trovo a cercare personaggi, inventare storie, intrecci, a leggere per la prima volta testi teatrali. Nasce così in quei mesi una specie di canovaccio teatrale, musicale, a partire da una fiaba, Il Re del Nudo. Un teatro rozzo, semplice, tutto politico. Decidiamo di presentarlo in aula magna. La voce si sparge e il giorno dello spettacolo l'aula si riempie di gente, di compagni, come non succedeva più da tempo. Durante la rappresentazione ci sono applausi a scena aperta, entusiasmo. Alla fine dello spettacolo, tutti noi attori e musicisti, saremo una trentina, ci disponiamo in fila e a mo' di saluto al pubblico cantiamo Bandiera Rossa, coi pugni alzati, mastodontando la canzone in un ritmo di blues e accendendo piccoli passi di ballo, come fossimo il coretto di un film musicale. Ci accorgiamo, però, che solo una parte degli spettatori ride della nostra ironia. Dopo qualche giorno io e qualcun altro del gruppo teatrale veniamo convocati dal comitato politico. Appena entrati nell'aula delle riunioni capiamo che tira brutta aria. Le facce sono scure, nere. Ci attaccano subito. Noi proviamo a difenderci, ma non c'è niente da fare. Abbiamo davanti un muro compatto. Fino a che, alla fine, si alza un compagno di Potere Operaio, un fuorisede, che puntandoci il dito contro ci indica la porta sul fondo e grida «Fuori! Fuori!» Che questi non sono più compagni, attori sono, attori. Ero stato marchiato. Fu così che cominciai a fare teatro. Via Fari. Il 16 marzo del 1978, quando la radio cominciò a trasmettere dell'attacco di Via Fari e del rapimento di Aldo Moro, io stavo scendendo dal furgone per andare a fare la spesa al mercato del Testaccio, a Roma, e rimasi lì, con la portiera aperta. Subito, in quei primi istanti, fui preso da un senso di eccitazione, una specie di euforia. Lo so che potrei raccontare tutt'altro, non ci vuole molto, forse uno di voi. Potrei dire che all'annuncio della radio provai sdegno, che condannai immediatamente l'azione delle Brigate Rosse. No, non andò così. Provai un senso di esaltazione. Com'era possibile? Io ero sempre stato lontano dai metodi di lotta delle Brigate Rosse. Non ero mai stato troppo convinto che lotta rivoluzionaria e lotta armata dovessero per forza coincidere, in quelle forme poi, no di certo. Nonostante tutti i cambiamenti avvenuti in me in quegli anni, com'era possibile che all'annuncio radiofonico del raffinamento io provassi quel senso euforico di appartenenza? Ma avevano capito un modo. Il presidente della Democrazia Cristiana, un simbolo del potere, del palazzo, avevano colpito il cuore dello Stato, allora stavolta c'erano riusciti, non erano solo slogan. Come avevano fatto? L'impresa sembrava eccezionale, di geometrica potenza. Poi scriveranno così, di geometrica potenza. E non fui solo io a essere preso da quel senso di eccitazione. Ci furono assemblee spontanee in molte università, cortei improvvisati in cui si gridavano slogan, poi rimasti incisi sui muri delle città. Da qualche parte si arrivò addirittura a brindare all'avvenimento. Ci furono però anche manifestazioni di segno opposto, scioperi spontanei, altri indetti dal sindacato, gente che scendeva in piazza a gridare contro le provocazioni, a difendere le istituzioni democratiche. Dal furgone la radio continuava a trasmettere le prime reazioni dei politici, i commenti delle aule del palazzo. Il fascista ammirante e il repubblicano La Malfa già chiedevano la pena di morte. Si parlava di guerra, si diceva che avevano colpito il cuore dello Stato. Camminando con le borse della spesa in mezzo ai balconi del mercato, la gente reagiva nei modi più disparati. C'era uno che diceva: è una provocazione, sta a vedere che c'è niente, una città dei carri armati, sta a vedere che lo fanno così al corpo di Stato. Un altro gridava: ma perché hanno preso Moro? Andreotti l'aveva, Cossiga. Una donna invece al banco della frutta ripeteva: poveracci quei cinque però, non dovevano ammazzarli così. E già, quei cinque. In un primo momento la parola rapimento, l'immagine di uno come Moro rapito, per me era stata più forte di qualsiasi altra. Mi ci volle un po' di tempo per assimilare anche le sequenze dei cinque uomini della scorta di Moro uccisi in via Fani. A sera comunque l'euforia me l'ha già passata. Quella frase che avevo sentita al mercato continuava a girarmi in testa. Perché proprio loro? Era Cossiga che noi scrivevamo con la K e la doppia S nazista sugli striscioni durante le manifestazioni. E poi Moro, nella percezione generale, più che simbolo del palazzo, era simbolo di quel modo di fare democristiano, con quelle frasi chilometriche che giravano su se stesse, avviluppandosi in mediazioni continue. Moro era quello che inaugurava sempre la fiera del Levante. Certo, era anche uno che aveva partecipato a quasi tutti i governi di quegli anni ed era stato lui che nel 1975, col governo di centro-sinistra, aveva fatto passare la legge Reale, una legge che permetteva a poliziotti e carabinieri di sparare ai posti di blocco. Ma ovviamente i conti non tornavano. Moro non era sempre stato quello più a sinistra, quello più aperto al dialogo. Non era proprio lui che stava addirittura truccando il Partito Comunista al governo. Anzi, proprio quel giorno si sarebbe dovuta variare, varare la nuova maggioranza. E l'avevano rapito quella stessa mattina. Il giorno dopo, i due quotidiani più letti dai compagni del movimento, Il Manifesto e Lotta Continua, prendevano una posizione chiara, molto dura verso i terroristi. Lotta Continua titolava: Rapimento Moro. È il gioco più pesante e sporco mai provato sulla testa dei proletari italiani. E il manifesto andava oltre, dicendo: il sanguinoso sequestro di Aldo Moro è l'ultimo atto di un decennio di stragi coperte dallo Stato. Come se tra i brigadisti ci fossero degli infiltrati, come se fossero manovrati. 2 giorni dopo l'Unità se ne usciva col titolo: Pare terra bruciata intorno ai terroristi. E che intendevano dire? Cosa c'era da bruciare? tutto il movimento extraparlamentare di quegli anni. A volte mi sembra che questa storia si potrebbe raccontare anche in un altro modo, come uno scontro tra padri e figli. Leggendo con attenzione la biografia dei terroristi, si scopre che soprattutto all'inizio della lotta armata, la maggior parte di loro proviene dalla tradizione comunista di fabbrica, dalle sezioni di partito, da famiglie antifasciste, partigiane, oppure dal cattolicesimo estremo, dal cristianesimo militare. Vengono da due grandi chiese, ma d'altra parte non serve forse una grande fede per arrivare a uccidere un uomo in nome di un più alto ideale di giustizia. Forse la nostra in quegli anni fu una gioventù con troppo Dio, sì, troppa fede, e i padri ne ebbero paura, chiusero le porte al dialogo, al confronto, forse perché con i nostri atteggiamenti ci ricordavamo che erano stati loro solo 20 anni prima. Ci fu un muro contro muro e i figli, per farsi ascoltare, si misero a gridare sempre di più, fino all'urlo sparato dalle armi. Non so, sarebbe forse un altro modo di raccontare la stessa storia. Un modo per poter capire, ad esempio, perché uno come me, che ormai aveva smesso di fare politica attiva, che continuava a farlo attraverso il teatro, andando a lavorare nei quartieri di periferia, con bambini in situazioni di disagio, nelle carceri, un teatro militante in cui credeva molto, come ci crede in fondo ancora oggi. Come fosse possibile che all'annuncio della radio, anche se per pochi istanti, fosse ripreso da quel senso di eccitazione rivoluzionaria? È una contraddizione. Sì, ed è proprio di questo che vorrei raccontare. Posto di blocco. Qualche giorno dopo l'attacco di Via Fani, sarà stato il 21 marzo, stavamo scendendo, io, Maria, la mia compagna, e il nostro figlio, lungo via Gregorio VII, con la nostra 500 gialla tutta scassata. Aveva una portiera bianca che avevamo sostituito dopo un incidente, bisognava tenerla con la mano in flessibilità, se no si arriva in corsa. All'altezza del ponte sul Lungotevere c'è un punto di blocco, come ormai ce ne sono centinaia a Roma. Hanno i mitra in pugno, ci fanno scendere, ci spingono, sempre tenendoci sotto tiro con le armi, ci strattonano, perquisiscono Maria per vedere se magari al posto del bambino tenga nascosta un'arma. Mio figlio Mirto, di appena un anno, comincia subito a piangere. Aprono il cofano, spalancano le portiere, ribaltano i sedili, rovesciano a terra la borsa di Maria, un biberon pieno di latte, rotola sul marciapiede. Io faccio per chinarmi a raccoglierlo, ma non ci riesco, le mie gambe sono irrigidite. Ho paura. Guardo i carabinieri. Sono tutti più giovani di me. Vedo con quanta facilità potrebbe partire un colpo da quelle armi maneggiate così. Ecco. Loro adesso potrebbero sparare e noi crepare qui, sull'asfalto. E la legge sarebbe dalla loro parte. Ecco. La legge reale, ora ce l'avevo davanti, concreta, tangibile. Per fortuna ci sbattono in auto infuriati perché non hanno trovato nulla. Mirto continua a piangere, io dopo un po' mi accorgo che sto guidando con le mani contratte sul volante, col corpo incarcato sul sedile. Essere odiati fa odiare, diceva Pasolini. Sì, è vero, c'era odio negli sguardi. Ma c'era anche qualcos'altro, una specie di impotenza, di rabbia trattenuta a stento, e non solo per l'attacco che lo Stato aveva subito, ma perché 5 dei loro compagni erano stati massacrati. Era il loro senso di appartenenza a un corpo, al corpo dei carabinieri, era questo che era stato violato. E loro adesso volevano vendicarsi, presto, subito, solo che non sapevano cosa fare. Come comportarsi. Erano sbandati. E allora si sfogavano, scaricando la loro rabbia su quelli come loro.